Focus Economia. Con Simone Spezia. Buonasera cari ascoltatrici e cari ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, lunedì 17 agosto. È un piacere ritrovarvi, un piacere trovare chi è come noi qua al Chiodo a Milano e anche chi eventualmente ne avesse voglia ci ascolta dalle ferie, dai luoghi di vacanza. 349-238-6666 per i vostri sms. Di cosa parleremo oggi? Beh, innanzitutto abbiamo il dato arrivato questa mattina dal Giappone, un dato in parte atteso che indica però che l'economia giapponese non va tanto bene. Nel secondo trimestre del 2015 c'è stato un calo dello 0,4% su base congiunturale, un meno 1,6 su base annua. Qua qual è il punto? Questa cura, per così dire, varata due anni fa da Shinzo Abe, il premier giapponese, la cosiddetta Abenomics, che comprende una serie di elementi, alcune modifiche fiscali, ma soprattutto una politica molto espansiva dal punto di vista monetario e che però evidentemente al momento non sta dando i suoi frutti. Di questo parleremo nella prima parte della trasmissione, anche perché proprio al Giappone alcuni in Italia hanno guardato con molta attenzione dicendo insomma è un po' come dovremmo fare noi, un piano di quantitative easing molto forte, un piano di allentamento monetario molto forte, una serie di stimoli economici e però le cose sembra che non stiano funzionando particolarmente bene. Da una parte si contraggono i consumi e forse questo poteva anche essere nelle attese visti i rialzi dell'IVA che lo stesso governo giapponese ha effettuato, dall'altra parte però c'è un netto calo delle esportazioni del 4,4%, esportazioni che dovrebbero essere esattamente quelle sostenute da una moneta indebolita. Su questo pesano vari elementi, tra cui non ultimo quello del quale abbiamo ampiamente parlato la settimana scorsa e state sicuri che non smetteremo di parlarne nei prossimi mesi, ossia quello che sta avvenendo in Cina. Una Cina che è in parte in difficoltà, sempre con le misure, per così dire, che conosciamo, che sono misure che a noi appaiono enormi, ossia una crescita del 7% dovrebbe essere quella che mantiene l'economia cinese in equilibrio. Adesso alcuni rapporti indicano che nei primi sei mesi dell'anno l'economia cinese è cresciuta di solo il 6,3%. Quindi la Cina, che è un mercato di sbocco per i prodotti giapponesi, non sta tirando, forse non tirano abbastanza nemmeno gli Stati Uniti, almeno in termini di attrazione dei prodotti giapponesi, e tutto questo evidentemente sta pesando. Tenete presente, l'anno scorso l'economia giapponese è stata a crescita zero, la cosiddetta Abenomics ha funzionato molto bene nell'immediato, un più 1,6% nel 2013 e poi appunto c'è stata questa contrazione. Il primo trimestre dell'anno è andato bene, il secondo trimestre è andato come stiamo vedendo oggi, e questo commenteremo e cercheremo di capire che cosa sta succedendo a quella che continua ad essere la terza economia mondiale. Si dibatte in un problema di bassa crescita e di deflazione ormai da anni se non da decenni. Parleremo anche di Italia a proposito di economia in difficoltà. Ci occuperemo del fatto che il governo sta già facendo evidentemente circolare qualche indiscrezione, o comunque i giornali pescano qualche indiscrezione sulla manovra in arrivo in ottobre, sulla legge di stabilità. Ci sono 10 miliardi di euro di tagli di spesa, dei quali abbiamo parlato lungamente anche, come sapete, e anche da questi microfoni esprimendo qualche perplessità sulla possibilità di raggiungere questo risultato, e però ci sono altri soldi da trovare, perché questa manovra ammonterebbe a 25 miliardi. Come si fa? Si cerca di andare sul sul deficit sostanzialmente, chiedere un po' di allentamento all'Unione Europea per quanto riguarda il deficit. Probabilmente anche di questo parlerà oggi il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che si trova qua a Milano ad incontrare la cancelliera tedesca Angela Merkel, un incontro che avverrà, per così dire, in corso di trasmissione, quindi ci collegheremo con la nostra Livia Zancaner che si trova là e poi approfondiremo un po' di numeri di manovra e di cose che si stanno prospettando in queste ore. Ovviamente siamo in una fase ultra preliminare di valutazione, di indiscrezioni ne avremo tante nei prossimi mesi e nei prossimi mesi, perché poi nelle prossime settimane sicuramente e nei prossimi mesi, fino a che non verrà approvata la legge di stabilità, vedremo che cosa ne emergerà alla fine. Intanto il 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, le notizie in breve di oggi. Lo dico ad un ascoltatore che ci scrive adesso: a me non sembra che da questi microfoni sia mai stata particolarmente esaltata la cosiddetta Abenomics, né da me né da altre persone, né dal conduttore abituale di questa trasmissione, insomma, il titolare della trasmissione, Sebastiano Barisoni, insomma. Abbiamo semplicemente cercato di osservare la realtà, visto che all'inizio i risultati ci sono stati e poi grandi oscillazioni anche su base trimestrale nell'andamento dell'economia giapponese. Quello che non vi ho detto è come stanno andando i mercati. Positivi, più 0,71% il FTSE MIB, più 0,69% il FTSE All-Share, negativa Francoforte dello 0,12%, Parigi su dello 0,76%, l'America, il Dow Jones guadagna lo 0,28%, Londra in perfetto pareggio. A proposito di mercati, andiamo su quelli delle materie prime. Oggi l'oro cresce dello 0,4% a $1,117,9 l'oncia. E c'è ancora un calo piuttosto netto, tra l'altro, per il petrolio. In questo momento il WTI, quello quotato a New York, cede lo 0,61% a $42,24 al barile. Stiamo parlando di quello a consegna, con consegna a settembre. Mentre il Brent in lieve risalita, più 0,20% a $49 al barile. Borsa americana, si diceva, in risalita dello 0,28% e non risente evidentemente dei dati diffusi oggi. Almeno l'indice che misura l'attività manifatturiera a New York, l'indice Empire, che si è contratto in agosto scendendo ai minimi dall'aprile del 2009, a meno 14,9 dai 3,9 punti di luglio. Forse ha guardato un po' più alla fiducia dei costruttori edili, che in linea con le attese, salita a 61 punti dai 60 di luglio. A proposito di valute, abbiamo il rublo che continua a perdere terreno su euro e dollaro, la divisa russa è scambiata a 65,66 e a 72,73 sull'euro. A pesare il calo del prezzo del greggio e le sanzioni occidentali ancora una volta, mentre il ministro dell'economia russo dice che quest'anno l'inflazione dovrebbe attestarsi attorno all'11%. L'anno scorso ha raggiunto l'11,4%. Del dato giapponese vi dicevamo, ci ritorneremo tra un attimo. Economia che si è contratta, ve lo ricordo rapidamente, nel secondo trimestre del 2015 dello 0,4% su base congiunturale e dell'1,6% su base annua. Qualcuno scrive che sarebbero più probabili nuove misure di stimolo dell'economia da parte della banca centrale giapponese. Bisogna vedere se le armi ce le ha per questo stimolo. Ci torneremo tra un attimo. E di oggi l'analisi di Fitch, agenzia di rating sull'Europa. Le prospettive economiche dell'Eurozona sono migliorate nel breve termine, scrive Fitch, ma quelle a lungo termine restano in generale deboli. Che cos'è che pesa? Allora, sulla crescita, e quindi non pesa, ma fa bene, l'euro debole, i prezzi del petrolio più bassi, una politica monetaria più che accomodante, un miglioramento delle condizioni di credito. Ma sul lungo termine c'è l'alto debito e le debolezze strutturali che peseranno sulla ripresa. Parla anche di Grecia, Fitch, dicendo che il prodotto interno lordo sarà in contrazione nel 2015 a causa delle difficoltà dovute ai controlli sui capitali, alle chiusure delle banche, all'incertezza sulla possibile uscita della Grecia dall'euro che si è manifestata in luglio. E quindi, diciamo, i mesi giugno e luglio peseranno poi complessivamente su tutto l'anno, mentre il tasso di interesse, il rendimento sul decennale della Grecia, sui titoli di Stato a 10 anni della Grecia, scendono sotto la soglia del 9% per la prima volta da febbraio scorso con l'accordo sul salvataggio di Atene, un rendimento che arriva all'8,64%. Borsa di Atene positiva. E qualche dettaglio che filtra da un punto di vista tanto economico quanto politico. Innanzitutto che, secondo l'edizione online del quotidiano Tovima, che pubblica il testo di una circolare del viceministro della Previdenza Sociale, la pensione minima versata mensilmente ai greci è stata ridotta di quasi 100 euro al mese, dai 486 ai 392. Il provvedimento è retroattivo, ossia sarà considerato in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. Da come la leggiamo, verranno chiesti indietro i soldi a una serie di pensionati greci. Vedremo se queste indiscrezioni saranno confermate. Poi è molto probabile che Tsipras chieda un voto di fiducia al suo governo sul terzo salvataggio di Atene, dopo che in Parlamento il piano è stato approvato con i voti dell'opposizione. Parla anche la Germania, dice: una vittoria della Germania se il taglio del debito greco è stato escluso dal terzo piano di aiuti alla Grecia. Un taglio del debito che è fuori discussione, ma esiste uno spazio di manovra per alleggerirlo, dice il portavoce dell'esecutivo guidato da Angela Merkel. Tenete anche presente che se anche Berlino fosse d'accordo con un taglio del debito, cosa che sappiamo che non è, comunque mercoledì si vota al Bundestag sul piano di salvataggio, e quindi non lo direbbero mai dal governo se anche fossero d'accordo con un taglio del debito, così come chiede il Fondo Monetario Internazionale. Toni morbidi da Schäuble, finalmente, diciamo, dopo un negoziato davvero arduo, dice: in Grecia hanno capito che il paese non può eludere vere e lungimiranti riforme, hanno capito l'importanza delle riforme. È responsabile l'accordo raggiunto venerdì scorso dall'Eurogruppo. La Bundesbank vede in prospettiva, grazie al terzo pacchetto di aiuti, un miglioramento delle condizioni economiche della Grecia. E però complessivamente, dice, il rischio di rallentamento della crescita complessivo resta alto. E su tutto questo pesa anche evidentemente la vicenda cinese, sulla quale torneremo in settimana e della quale parleremo anche tra poco, tra l'altro. La stessa Bundesbank prevede che la Germania continui a crescere in modo solido nel secondo semestre del 2015. Un'altra di quelle notizie che, come dire, tendono a suscitare un po' di rabbia, perché è tornata la polemica sugli stipendi d'oro alla City di Londra. Secondo un rapporto di un think tank, High Pay Center, che si occupa evidentemente proprio di questo, visto come si chiama. Gli amministratori delegati delle compagnie all'interno del FTSE 100, l'indice azionario britannico più importante, guadagnano mediamente 183 volte in più rispetto in media rispetto ai dipendenti full time. 5 milioni di sterline contro salari medi che non superano le 27.000, dati in aumento rispetto al 2014. No, scusate, dati del 2014 in aumento rispetto al 2010. L'Italia brevemente, poi ci torneremo perché parleremo anche di manovra nella seconda parte della trasmissione. Le entrate tributarie contributive nel periodo gennaio-giugno 2015 aumentano dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2014. Più 0,6 per le tributarie, più 1,9 per le contributive, per le entrate contributive. E crescono le entrate tributarie degli enti locali, più 7,5%, 26,2 miliardi. Il confronto è influenzato dal gettito della cosiddetta mini IMU versata a gennaio 2014, ma di competenza dell'anno 2013, e dal gettito dell'acconto TASI 2015. Andremo tra poco anche a parlare di Italia, iniziamo però dal Giappone. Allora, arriveremo anche a quello che ci chiede Silvio da Verona, che dice come pensano di riconciliare il superamento del limite del 3% e la riduzione del debito. Non credo che il governo italiano pensi di superare il limite del 3%, pensa di rimanere all'interno del limite del 3% guadagnando dei margini di manovra, appunto. Comunque ne parleremo tra poco, avremo anche Dino Pesola del Sole 24 Ore per fare il punto su questo. Intanto saluto Tommaso Monacelli, che è ordinario di economia politica all'Università Bocconi di Milano. Professor Monacelli, buonasera. Buonasera. Allora, il tema è quello del Giappone. Abbiamo fornito il dato poco fa, ve lo ridiamo. Torna negativo il PIL dopo due trimestri consecutivi in crescita, più 0,6 nel quarto trimestre del 2014, più 1,1 nel primo trimestre del 2015. Nel periodo la contrazione dello 0,4%, il PIL è calato dell'1,6% su base annualizzata. Ricordiamo che il 2014 nel complesso si era chiuso con uno 0%. Ci si sta chiedendo, e si stanno chiedendo in molti anche in Italia, che hanno guardato, come si diceva, con molto interesse a questo mix di iniziative messe in campo dal governo giapponese, che vanno sotto il nome di Abenomics, che comprendono una politica fiscale, qualche strategia di crescita e di riforma e soprattutto una politica monetaria molto espansiva. E ci si sta chiedendo evidentemente se tutto questo stia funzionando. Apparentemente, professor Monacelli, da quel che vediamo, no, o comunque a fasi molto alterne. Ma non sarei così pessimista sugli esiti dell'Abenomics, cioè questo è un dato congiunturale che va poi approfondito rispetto al rallentamento della Cina, e quindi questi sono elementi rapporti commerciali Giappone e Cina, quindi a che cosa esattamente questo sia dovuto bisogna approfondirlo. Dopodiché l'esperimento in generale, cioè il giudizio in generale sull'Abenomics, in particolare su questo gigantesco esperimento monetario, cioè di espansione della base monetaria, forse il più grande della storia, aveva dei limiti fin dall'inizio. Insomma, è uno dei pochi casi in cui la teoria economica fin dall'inizio avrebbe previsto, e ha previsto, ne ho anche parlato a proposito, che per come era disegnato l'esperimento di espansione monetaria non poteva portare i benefici che tutti si auguravano, semplicemente perché niente lasciava presagire che questo esperimento di espansione della quantità di moneta fosse permanente, cioè proprio permanente nel tempo, che è quello che la teoria economica invece prescrive che debba essere se si vogliono ottenere gli effetti di incremento dell'inflazione e di crescita economica. Quindi questo già si sapeva, perciò da questo non ci si doveva aspettare più di tanto. Sugli elementi di politica fiscale e sulle riforme strutturali, io soprattutto sulle riforme strutturali sarei più positivo e aspetterei a vederne gli effetti nel medio periodo, che credo invece che saranno comunque importanti, soprattutto pensando a quello che avrebbe potuto essere lo scenario alternativo per il Giappone. Cioè, noi, quando si fanno questi ragionamenti, il cosiddetto controfattuale non viene mai preso in considerazione, cioè che sentiero avrebbe seguito il Giappone in assenza di queste politiche. Sì, lei dice, se fosse rimasto fermo probabilmente sarebbe stato molto peggio, perché noi assistiamo, lei citava i rapporti commerciali con la Cina, una Cina che abbiamo visto è per... ovviamente nei termini strettamente cinesi quasi in contrazione, alcuni rapporti economici la danno con una crescita nei primi sei mesi dell'anno ad un più 6,2%, quando l'obiettivo per mantenere stabile l'economia, se non erro, è più o meno un più 7%, quindi contrazione in termini cinesi. Quanto questo sta pesando sulle esportazioni giapponesi? Perché questo dato, sì, che abbiamo fornito sul PIL incorpora un meno 4,4% delle esportazioni, che, esatto, dovevano essere un fattore fondamentale. Insomma, se uno deprezza la propria moneta lo fa fondamentalmente per quello, no? No, ma certamente, quindi c'è sempre un po' il difetto di analizzare dati congiunturali nella prospettiva dell'esito di politiche invece di lungo periodo. Quelle del Giappone hanno il pregio di essere politiche che hanno una combinazione di breve e di lungo periodo come ottica. Ma non bisogna neanche pensare che le espansioni monetarie to cure più grandi sono e meglio sono, anzi tutt'altro, possono portare dei benefici nella misura in cui si ritiene che la situazione sia la situazione di deflazione, insomma di decrescere i prezzi, che è un po' il male del Giappone da 15-20 anni, sia di per sé nociva e inefficace. Non bisogna pensare che questo sia il motore della crescita di un paese, sarebbe proprio un messaggio distorto. Riguardo alle riforme strutturali, questo sì, questo è il motore della produttività di un paese nel lungo periodo, e su questo francamente non sarei così pessimista riguardo al Giappone. Sì, abbiamo visto tra l'altro in tutto questo, professore, dei dati molto, anche in merito a quello che diceva lei, no? Dei dati molto oscillanti trimestre su trimestre. Voglio portare un esempio agli ascoltatori per farci capire. Allora, nel primo trimestre del 2014 l'economia giapponese è cresciuta dell'1,1%, nel secondo trimestre è scesa dell'1,7%, poi ancora giù dello 0,5% e su dello 0,6% nel quarto trimestre. Insomma, quindi forse appunto bisogna prenderli con un po' più di calma, dice lei, questi dati. Primo, e soprattutto prenderli in relazione al potenziale, perché a me, cioè, francamente, un dato del meno 1,1 o del 2,1 mi dice poco se non viene rapportato a quello che è invece il PIL potenziale, quindi il gap fra questi due indicatori che a me interessa, e valutare questo perché tiene conto sia dell'elemento di propulsione nel breve periodo, ma anche di come il trend dell'economia si sta evolvendo. Quindi su questo non sappiamo, da questi dati non possiamo estrapolare il tutto. Dopodiché, giustamente, lei fa riferimento a dei dati molto oscillanti che sono proprio tipici di una congiuntura internazionale che è veramente ancora altamente volatile. Quindi il Giappone non è un caso a parte su questo, ma non è questo che dobbiamo guardare. Insomma, l'elemento di incertezza e di volatilità ha poco a che fare con la capacità propulsiva di lungo periodo della Benomics, ma questo ha a che fare con elementi congiunturali internazionali. Senta, professore, c'è qualcuno che scrive: a questo punto la Banca Centrale Giapponese potrebbe essere costretta a mettere in campo ulteriori azioni, ma secondo lei ci sono margini per ulteriori azioni da parte della Banca Centrale Giapponese oppure no? Guardi, il Giappone, il caso della politica monetaria giapponese è un caso scuola, proprio appassionante per gli studiosi, soprattutto di errori, commessi nel passato. Devo dire che poi tutti gli errori che la Banca Centrale del Giappone ha commesso negli anni 90 e i primi anni 2000 poi sono stati molto importanti e di grande aiuto per Bernanke per capire che cosa diavolo fare durante la grande recessione. Ma il punto è proprio questo, cioè ci sono altri elementi, per esempio politiche di forward guidance, cioè di impegni a tenere i tassi bassi a zero per lungo, come hanno fatto la Banca d'Inghilterra, come ha fatto la Fed, riviste secondo le ultime lezioni della teoria ci sono, ma il problema centrale della Banca Centrale del Giappone è la credibilità. Cioè, dopo tutti questi errori, nel passato è come battere un martello nell'acqua e insistere sempre più forte. Il modo di insistere in modo più forte c'è, ma non serve a niente, proprio perché questa istituzione, con gli errori che ha commesso nel passato, difficilmente riesce a mettere in atto politiche ormai che siano veramente credibili nella lotta all'inflazione, alla deflazione. Non è particolarmente credibile. Professor Monacelli, un'ultima domanda invece su l'altro lato dell'export giapponese, ossia la Cina, alla quale accennavamo poco fa. Si diceva, ci sono questi rapporti che sono stati diffusi oggi, se non sbaglio, da Bloomberg, secondo i quali l'economia cinese, sempre nei loro termini, sarebbe in una sostanziale contrazione. Vorrei capire come legge lei gli ultimi eventi, anche di politica monetaria, per così dire. Prego. Sul rallentamento, ma per carità, l'economia non può espandersi all'infinito, deve trovare un sentiero sostenibile, era ovvio che questo succedesse, e quindi anche la fase di assestamento era prevedibile, ed è questo un po' che i mercati scontano. Tutte le fasi di passaggio di regime implicano incertezza e revisione un po' delle aspettative, dei quadri previsionali, eccetera. Ma direi che l'elemento più interessante, secondo me, che ha a che fare con la svalutazione del renminbi, che poi è minima, è un grande tema che rimane sullo sfondo e che forse con il ruolo della Cina adesso così importante finiremo per finalmente affrontare definitivamente, che è quello della mancanza di coordinamento delle politiche monetarie internazionali. Cioè, questo è un tabù che dagli anni 70 non viene più rivisto, e invece con il ruolo di questi grandi giganti, dalla BCE alla Fed e anche la Banca Centrale Cinese, con gli effetti collaterali che la mancanza di coordinamento delle politiche monetarie, dei cambi, esercita poi sui paesi emergenti, che sono dei player sempre più importanti, come vediamo. Ecco, questo tema del coordinamento delle politiche monetarie, secondo me, sarà un tema centrale dei prossimi 10 anni della politica monetaria. La ringrazio, grazie a Tommaso Monacelli, ordinario di economia politica all'Università Bocconi di Milano. La ringrazio, e proprio di mercati torneremo a parlare tra poco. Vi dico intanto che il FTSE MIB ha chiuso con un rialzo dello 0,69%, il FTSE All Share dello 0,65%. A tra poco. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo a 349-238-6666 per i vostri sms. Qualcuno ci scrive: ma quanto incide l'invecchiamento della popolazione giapponese sull'andamento dell'economia? Probabilmente ha un impatto anche quello. Quello è uno dei grandi temi. Considerare che sono 3 i paesi più vecchi del mondo, per così dire, sono Italia, Germania e Giappone. La Germania sta tirando, ma molti si stanno già ponendo il problema di quello che succederà proprio alla popolazione tedesca con questo invecchiamento. È uno dei grandi temi, forse più profondo e più a lungo termine della stessa Abenomics. Veniamo ai mercati. I mercati che chiudono bene, più 0,69% si dice il FTSE MIB, più 0,65% il FTSE All Share, negativa Francoforte dello 0,41%, Parigi su di mezzo punto percentuale, Londra più 0,23%, l'America positiva, anche se non di molto, più 0,18% il Dow Jones, più 0,21% lo Standard & Poor's 500. Andrea Fontana, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. A cosa dobbiamo l'andamento di oggi? Beh, è stata una giornata, diciamo, dai due volti, un tentativo di recupero delle borse dopo la seduta di venerdì, che è stato però frenato dal nuovo calo dei prezzi del petrolio, con il contratto settembre a New York che è sceso anche sotto i $42 a barile, segnando nuovi minimi dal marzo 2009, e anche dai dati e dalle statistiche sul manifatturiero americano nel mese di agosto, che sono stati negativi, hanno sorpreso i mercati e hanno portato ad alcune ore nel pomeriggio di flessione, dove Francoforte ha perso anche oltre l'1%. Poi il recupero di Wall Street ha favorito, diciamo così, un ritorno degli acquisti e l'ottimismo anche in Europa, e Milano quasi tutte sono riuscite a chiudere in positivo. Milano ha chiuso allo 0,7%, come tu ricordavi, in rialzo. Solo Francoforte ha terminato la giornata ancora in negativo, dello 0,4%. Per quanto riguarda i singoli titoli, vedo in cima a tutti UbiBank con più 2,37%. Ci sono motivi particolari? Vedo anche in generale un po' tutte le banche in spolvero. Popolare Emilia Romagna più 1,31, Intesa San Paolo più 1,18, Banco Popolare più 1,46. Andrea? E oggi una giornata positiva per le banche, in parte legata alla contrazione nuovamente dello spread, del differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, in area 113 punti base, ma poi anche un po' di scommesse sul fatto, qualche indiscrezione circolata sul fatto che il governo stia studiando altri provvedimenti per favorire la gestione dei crediti in sofferenza nel portafogli delle banche. Già alcuni provvedimenti sono stati presi, si parla di qualche altro provvedimento, anche se i dettagli non sono ancora chiari. Insomma, il mercato è tornato su questo settore, su cui da qualche settimana, diciamo così, c'era una maggiore cautela e c'erano anche dei realizzi viste le performance fatte dall'inizio dell'anno. Bene anche Azimut, che guadagna l'1,92%, Tots l'1,69%, Buzzi Unicem l'1,67%, Atlantia più 1,66%. Andrea? Atlantia oggi è spinta positivamente dai dati del traffico aeroportuale di Fiumicino, dati che per il periodo estivo hanno un po' sorpreso gli operatori, visto che sono positivi in rialzo, e visto che Fiumicino ha vissuto una fase molto delicata negli ultimi mesi con il blocco di una parte dell'aeroporto dovuto all'incendio avvenuto a maggio. Questi dati hanno portato un po' di ottimismo e hanno fatto recuperare questo titolo, comunque dall'inizio dell'anno ha già guadagnato il 30%, oggi è salito di un altro 1,6%. Allora, ancora ST Microelectronics che guadagna 1,5%, di Banco Popolare abbiamo detto, bene Snam che guadagna l'1,33%, Enel più 1,32%, anche se la giornata è stata complessivamente debole, parlo soprattutto, è stata debole per i petroliferi, Eni meno 0,06%, vabbè, qua c'è il prezzo del greggio, Andrea, no? Sì, sicuramente Eni è riuscita a recuperare sul finale, portarsi praticamente in parità, ma durante il corso della seduta ha sofferto parecchio, è arrivata a perdere anche oltre l'1%, proprio in parallelo a quello che era l'andamento del petrolio che ricordavamo prima. Adesso il petrolio sul finale ha un pochettino ridotto le perdite, e anche Eni si è riportata in area 15,50 euro operazione, dopo essere scesa in maniera più significativa verso i 15 euro durante il pomeriggio. Bene, oggi anche Ferragamo più 1,09% e Terna più 1,07%. Una buona giornata per le utility in generale, per Terna diciamo che c'è un'attenzione legata a un fattore greco, cioè è probabile che il mercato si aspetta che tra gli asset che il governo greco metterà in vendita ci sia la rete di trasmissione elettrica nazionale. Già mesi fa c'era stato la possibilità di un investimento da parte di operatori esteri in questo asset. Ora il mercato torna e già allora Terna si era detta interessata. Il mercato torna a scommettere che Terna possa recitare un ruolo in questa privatizzazione, che è vista come un'opportunità da diverse case di investimento. Ecco perché oggi il titolo, diciamo, si è ben mosso e per tutta la seduta è stato positivo. Bene, oggi anche Prysmian più 0,88, Generali più 0,7, Monte dei Paschi più 0,7, Campari più 0,6, così come Unicredit e Mediolanum, Exor più 0,6, ma in realtà, Andrea, il resto dei titoli della cosiddetta galassia Agnelli, galassia Fiat, come vogliamo chiamarla, cioè CNH e Fiat Chrysler, sono giù dell'1% e dello 0,64 rispettivamente. Ci sono motivi particolari o no? Ma non ci sono motivi particolari legati alla giornata di oggi. Sicuramente CNH attraversa una fase di debolezza che è legata ai dubbi che ci sono sul comparto agricolo negli Stati Uniti, al calo dei prezzi delle commodity agricole negli Stati Uniti, e che vengono amplificate dal fatto che la forza del dollaro porta a ridurre le esportazioni dagli Stati Uniti verso il resto del mondo e di conseguenza ad aumentare le scorte e a diminuire i prezzi, appunto, dei cereali, dei beni agricoli, con effetti su chi opera in questo settore, nello specifico CNH Industrial, che sta soffrendo nelle ultime settimane. Negativa anche Jux, meno 0,7, Moncler, meno 0,58, Saipem, meno 0,45, Unipol 6, meno 0,18, A2A, meno 0,17, Telecom Italia, meno 0,08%. Invece il titolo migliore in assoluto, Seat, pagine gialle, più 7,8%. Sì, questa mattina gli azionisti, i protagonisti di quello che sarà il riassetto di Seat Pagine Gialle da settembre hanno comunicato, appunto, la tempistica, l'avvio a settembre di tutta l'operazione che porterà Seat Pagine Gialle a fondersi con Italia Online, la società dei portali web Virgilio e Libero.it, un riassetto a cui seguirà un lancio di un'offerta pubblica d'acquisto sul mercato, che era già stata annunciata nei mesi scorsi, ma che insomma il mercato adesso vede come concreto, e questo ha portato al rialzo di oggi, che è stato quasi vicino all'8%, con punte anche di più 10% nel corso della seduta. Grazie Andrea Fontana di Radio Cori Il Sole 24 Ore, i colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore, come sempre, per le puntuali informazioni di borsa, e buona serata. Buona serata a voi, grazie. Ed eccoci noi adesso, e tra un attimo andremo a parlare della manovra che si sta preparando. I vostri sms al 349-238-6666, però per favore risparmiateci cose di questo genere. Allora, abbiamo parlato di Giappone in apertura, abbiamo parlato di mercati, e arriva un sms che dice: vergogna, siete Radio PD, ma quando mai abbiamo parlato del Partito Democratico? Traffico. Focus Economia. Veniamo finalmente all'Italia e alla manovra, una manovra per il 2016, una legge di stabilità che dovrebbe essere da 25 miliardi di euro, che dovrebbe servire tra l'altro a disinnescare l'aumento dell'IVA e delle accise previsto dalle clausole di salvaguardia e a lanciare una prima fase di questo taglio delle tasse a 35 miliardi che Renzi ha annunciato per i prossimi 3 anni. E però, dove si trovano questi 25 miliardi? Il tema è sempre quello. Allora, 10 miliardi dai tagli di spesa. E poi si cercherà di ottenere dall'Europa qualche decimale sul deficit. E forse anche di questo parlerà Renzi oggi, che proprio in questi minuti sta incontrando Angela Merkel all'Expo di Milano. C'è là la nostra Livia Zancaner. Livia, buonasera. Buonasera Simone. Allora, è arrivata la cancelliera tedesca? Allora, è arrivata l'incontro Merkel-Renzi, era previsto per le 17.30, la cancelliera tedesca è arrivata in anticipo, quindi alle 17.20, accompagnata dal marito Joachim Sauer, ad accogliere quindi il premier Matteo Renzi con la moglie. In questi minuti si trovano al padiglione Zero, il primo, arrivando ad Expo da Rofiera. Insieme a loro ci sono il ministro Martina, il prefetto di Milano Tronca e Giuseppe Sala, commissario unico per Expo. Dunque, ufficialmente si tratta di una visita privata, l'hanno detto sia da Berlino sia dall'Italia, ma come noto avviene in un momento in cui i caldi sono molti, quindi in particolare tre: Grecia, immigrazione e stato dei conti pubblici italiani, quello di cui parlavi appunto prima. Allora, per quanto riguarda la Grecia, mercoledì il Bundestag dovrà votare sul pacchetto di aiuti ad Atene, approvato venerdì, quindi la Merkel, il viaggio della Merkel in Italia sarà molto breve, anche perché poi è prevista una missione della cancelliera in Brasile. Poi l'immigrazione, la cancelliera stessa ieri ha detto che è l'emergenza più grave. E poi lo stato dei conti pubblici italiani, appunto in vista della legge di stabilità, come dicevi tu, i dati sul PIL hanno deluso, il governo deve trovare le risorse per farlo, appunto Palazzo Chigi potrebbe chiedere altra flessibilità all'Europa, quindi non è detto, ma oggi appunto potrebbe essere è prevedibile, esatto, è prevedibile, Livia, che forse un accenno Renzi oggi lo faccia la cancelliera tedesca. È prevista anche una cena o mi sbaglio? È prevista una cena, perché ora si trovano a Padiglione Zero, ma poi andranno insieme al Padiglione Tedesco e a Palazzo Italia verso le 18.30 e lì appunto è prevista una cena tra i due. È probabile che affronteranno una serie di tematiche, però finora hanno sempre parlato di visita privata. Grazie intanto alla nostra Livia Zancaner, che torneremo a sentire nei nostri giornali radio anche per la cronaca di questa visita. Saluto Dino Pesole del Sole 24 Ore. Dino, buonasera e bentornato. Grazie Simone. Allora, come al solito e più o meno come sempre in questo periodo, ci ritroviamo a fare i conti, e cioè iniziano a circolare le indiscrezioni sulla manovra progettata dal governo, sulla legge di stabilità, perché ci si inizia a lavorare un po' più intensamente, visti anche gli indirizzi politici, e si iniziano ad ipotizzare un po' di cose e un po' di misure. Ma soprattutto si inizia a capire che i soldi per attuare queste misure non sono tanti. Si parla di una manovra da 25 miliardi, 10 miliardi dovrebbero arrivare dalla spending review. Allora Dino, io partirei proprio da qua, perché qua molte perplessità sono state espresse sulla capacità di reperire questi 10 miliardi da parte dell'esecutivo nel corso dell'anno. Vorrei capire come la vedi tu. Beh, assolutamente d'accordo con queste perplessità, considerando che reperire 10 miliardi di tagli con una sola manovra e dunque con una sola legge di stabilità è un'operazione che finora non è mai riuscita a nessuno, e questo perché, come sappiamo, mettere mano alla spesa pubblica è un'operazione molto complicata, anche perché è un'operazione che attiene in primo luogo a scelte politiche che devono essere importanti, coraggiose, forti, e soprattutto se si vuole evitare di tornare a ripercorrere la strada dei cosiddetti tagli lineari, che poi sarebbero recessivi. E quindi si tratta di individuare ben 10 miliardi di tagli selettivi, vale a dire di operare con il bisturi. È un'operazione che non è semplice. In effetti, poi vedo anche da alcune dichiarazioni di autorevoli membri del governo, tra cui il vice ministro Morando, che oggi in un'intervista dice è proprio questa la partita più complicata, perché non sappiamo come la maggioranza reagirà in Parlamento a una sforbiciata così consistente della spesa. Eh già, perché tu, ricordiamolo sempre, quando vai a toccare la spesa pubblica tocchi una serie di interessi e quindi anche una serie di constituency elettorali, insomma, e quindi quando poi le porti in Parlamento i tagli di spesa non è detto mai che passino nel modo nel quale vuoi che passino, no? Certamente, anche perché se si vuole, come io spero e credo che sia nelle intenzioni del governo, evitare di toccare dei grandi capitoli, che quindi sono la spesa sociale sostanzialmente, sanità e pensioni, bisogna intervenire su capitoli in cui la variabile politica è decisiva. Vediamo ad esempio tutto il capitolo delle spese per l'acquisto di beni e servizi, ma anche i cosiddetti costi della politica, e anche la partita delle cosiddette agevolazioni fiscali, che rientra nella spending review, e anche questa è complicata, perché è vero che ci sono ben 720 voci tra sconti, deduzioni, detrazioni e quant'altro, però non è un caso che ci siano, perché evidentemente questi sconti sono stati concessi nel corso dei decenni anche come dire, per far fronte a istanze tipo clientelare. Quindi si tratta, come sempre, di decidere, e quando si decide bisogna scontentare qualcuno, e quando si scontenta qualcuno bisogna affrontarne i costi politici in Parlamento. Quindi questa è sicuramente la partita più complicata, ma non è l'unica di questa legge di stabilità, che si presenta molto molto complessa, al di là poi della cifra che è molto impegnativa, i 25 miliardi, si parla di margini di flessibilità da ottenere in Europa. Sì, si può percorrere questa strada, e secondo me sarebbe utile percorrerla, tenendo conto che però noi abbiamo già utilizzato delle clausole di flessibilità, quindi bisogna utilizzarne altre. È una partita. Abbiamo già 6 miliardi e mezzo circa, se non erro, Dino, che sono stati concessi, per così dire, no? Come margine di flessibilità. Esattamente, quelli sono già nei saldi di finanza pubblica, e il governo li ha già inseriti nel documento di economia e finanza di aprile, e li ha già destinati a disinnescare le clausole di salvaguardia che altrimenti scatterebbero dal 1 gennaio, lo ricordo, e prendono sul nostro capo aumenti consistenti dell'IVA, delle accise, che però il governo intende scongiurare, e per farlo ci vuole la spending review e la flessibilità europea, ma non basta, perché bisogna arrivare a 25 miliardi. Eh sì, perché c'è anche una parte nella quale il governo teoricamente vorrebbe avere anche una parte, per così dire, espansiva della manovra, non solamente, no, quella di come dire, contenimento dei problemi, per così dire. Giustamente, giustamente. No, mi sembra la partita più importante al momento sia rappresentata, Dino, dal finanziamento ulteriore della decontribuzione sugli assunti a tempo indeterminato, o mi sbaglio? Quella è una partita importante, anche se mi sembra molto difficile che il governo possa replicare interamente il meccanismo di quest'anno, perché costa un sacco di soldi. Infatti si sta orientando, a quello che si sa, a una norma che sia più selettiva, vale a dire verranno individuate dei tetti, e all'interno di questi verrà concesso questo beneficio con ulteriore sconto, ma non si potrà lavorare su importi dei 5-6 miliardi di cui si è ragionato quest'anno. E poi c'è tutta la partita della fondamentale riduzione delle tasse, che anche questo rientra nella manovra. Il governo ha annunciato una manovra di riduzione della pressione fiscale sugli immobili da 5 miliardi, che va finanziata. Quindi, come si vede, tutte misure importanti, perché siamo tutti convinti che le tasse vanno ridotte, e che anche attraverso la riduzione delle tasse si riesce a spingere sulla domanda interna e dunque sulla crescita, però vanno finanziate, perché non possiamo permetterci il lusso di andare a Bruxelles e dire che queste manovre non hanno copertura. Quindi, insomma, diciamo che il cantiere della manovra è ancora in via di allestimento, ma si annuncia molto complicato. Secondo te, Dino, sarà rispettata questa cifra che circola dalle indiscrezioni dei 25 miliardi, o il governo sarà costretto inevitabilmente a ridurre un po' tanto la cifra quanto le ipotesi di interventi espansivi? Io penso che questa cifra possa essere confermata, ma solo a patto che si riesca a spuntare un po' più di flessibilità sul deficit. Faccio un esempio, tanto per capirci, poiché noi il prossimo anno abbiamo stimato un deficit dell'1,8%, è un margine di sicurezza abbastanza ampio, quindi io credo che se il governo a settembre andrà a Bruxelles e dirà alla Commissione europea che per il 2016 si farà un po' più di deficit, la butto lì, 2,2, ma rientrando ampiamente all'interno del tetto massimo del 3%, si possa avere un piccolo margine in più, fermo restando che quello è uno degli addendi, poi il resto va finanziato. Io penso che la manovra complessiva sarà esattamente di questa cifra, e quindi vedremo come il governo farà fronte a tutto questo. Allora, poi ci chiede qualche ascoltatore sulle pensioni, brevemente, Dino, se non sbaglio è proprio in legge di stabilità che dovrebbe arrivare l'ipotesi quella sull'età pensionabili, insomma poter andare in pensione qualche anno d'anticipo ma chiedendo un prestito sul proprio trattamento futuro poi da restituire a rate, ma comunque insomma un, diciamo, un taglio della, della pensione a fronte del fatto che va in pensione prima, potrebbe entrare in legge di stabilità quello? Sì, potrebbe, sicuramente il governo ci sta lavorando anche sulle ipotesi che sono state avanzate proprio lo scorso 8 luglio dal presidente dell'INPS Tito Boeri, che in Parlamento ha illustrato alcune ipotesi, però i tecnici della ragioneria stanno facendo i calcoli, perché queste sono norme che costano e dunque bisogna capire su quale cifra ci si sta orientando. Secondo me ci sarà un primo passo verso la flessibilità in uscita, ma non potrà essere finanziata tutta con la prossima legge di stabilità, perché poi però allora la manovra lorda crescerebbe attorno ai 30 miliardi e francamente mi sembra eccessivo, eccessivo. Grazie a Dino Pesole del Sole 24 Ore, a Barbara Bianchi in redazione insieme a Benjamin De Zulian, grazie anche a Roberta Fisani in regia, a tutti voi per l'ascolto, ci si sente domani dopo il GR delle 17.